blog. Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Chi adotta chi? È il mistero della nostra storia, già contenuto nella sublime transitività del verbo adottare, con l'interno convincimento che non si tratti di un'esperienza particolare o straordinaria. È vero, da un giorno all'altro ci si ritrova genitori di bambini che sono già nati e che hanno alle spalle vari anni di vita. Non c'è stata gravidanza, non c'è stata un'ecografia, non ci sarà allattamento. In molti casi non si insegneranno i primi passi, non si cambieranno pannolini, non si assisterà allo spettacolo dei dentini che spuntano. Si è forse per questo meno genitori? Ho sempre sostenuto che attorno alla genitorialità di tipo biologico, genetico, esista tutto un grande cascame mitologico che forse sarebbe ora di sfrondare. Ho detto più volte, prendendo mistrali tutti ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, che vorrei donne sregolate, private delle regole, private dell'obbligo genetico di partorire figli con dolore. Esiste però una via intermedia rispetto a questo mio scenario futuribile, forse folle. Esiste la possibilità di allevare dei ragazzi, dei bambini, senza aver necessariamente passato tutta la trafila della generazione, dell'attesa, del parto, dello svezzamento. Ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato sotto vari aspetti. Questa mattina ne parlerò da un'esperienza diretta di una madre che ha adottato tre ragazzi che oggi hanno 10, 8, 6 anni, tre in un colpo ne ha presi, poi capiremo perché. Se è andati a prendere in Russia, se l'è portata in Italia. È un percorso difficile sicuramente, un percorso non certo risolvibile in un'equazione, beh, se non potevi fare i figli li adottati, ma in fondo non sono come i figli tuoi. Cosa significa figli tuoi? Io ho rinnegato i miei genitori quando già ero nell'età dell'adolescenza. Esiste un legame di sangue che rende indissolubile il rapporto tra genitori e figli, oppure in fondo il genitore è colui che alleva i figli, colui che li strappa dall'anonimato, che li strappa da una vita brada, che in fondo li segue finché non sono autonomi. 800 24 0024. Amaltea, buongiorno. Buongiorno. Amaltea è naturalmente uno pseudonimo perché questa madre ha voluto siglarsi con un nome d'arte. Amaltea è la capretta che allevò Zeus, salvandolo da il fatto che Urano i soliti figli se li mangiava. Quindi Zeus è diventato il padre di tutti gli dèi, l'origine di ogni benessere, ogni malessere dell'umanità, perché una capretta l'ha allevato, l'ha nutrito, l'ha allattato. Amaltea ha scritto un libro, Il mare non chiude mai, adottare tre bambini e restare allegri, un libro pubblicato da Einaudi. Amaltea di mestiere fa la giornalista, ma ha voluto legare la sua figura pubblica alla sua vicenda privata. Perché tre in un sol colpo? Beh, diciamo che non si sceglie in questi casi, come non si sceglie il sesso del proprio bambino quando si rimane incinta, come in generale forse i figli non si scelgono. È una serie di passaggi che ha fatto sì che nel nostro caso fossero tre, e nel nostro caso poi sono stati tre perché l'ente di collegamento ce ne ha proposti tre, perché il tribunale ci aveva dato un decreto di idoneità che valeva anche per più di un bambino se fratelli. Quindi era abilitata averne a Iosa? Sì, diciamo sarebbe potuto essere anche uno, potevano essere due, potevano essere tre. Ti hanno fatto un esame di abilitazione all'adozione? Il percorso che porta al rilascio del decreto di idoneità è un percorso piuttosto semplice, per la verità, e anche piuttosto scandito nei tempi. Il problema comincia dopo, al termine del rilascio del decreto. Si devono fare dei colloqui con degli psicologi. In coppia li fate? Sì, in coppia. Cosa e anche separati. Di che vi chiedo? Ma in generale questa è una cosa che per esempio mi ha sorpreso lì per lì, ma poi ne ho capito la ragione. Non viene interrogato sui motivi per cui hai deciso di adottare. Viene interrogato sulla tua storia, cioè su qual è stato il rapporto con i tuoi genitori, su com'è la tua famiglia di origine, e in generale anche un aspetto molto approfondito dagli psicologi e gli assistenti sociali dei servizi, fino a che punto hai elaborato, diciamo, il lutto di non aver avuto un figlio biologico, perché in alcuni casi questo può essere davvero un freno, perché se si pensa che il figlio adottivo sia la reincarnazione del figlio immaginato, ecco, si commette un errore di prospettiva importante. 800 24 00 24, vorrei sapere dagli ascoltatori quanti hanno esperienze simili da confrontare con quello che oggi descriveremo come un cammino importante, un cammino scandito passo dopo passo per portarsi a casa dei bambini che vengono da un paese lontano, in questo caso dalla Russia, perché Amaltea si occupa comunque di quel territorio, si occupa di politica internazionale, è stata tanti anni in Russia, conosce bene il paese, conosce la lingua e casualmente o non casualmente la Russia è uno dei posti da dove maggiormente vanno gli italiani a prendere i figli, e non soltanto gli italiani. Ma cosa si è stabilito? Una sorta di grande supermercato dell'offerta ai bambini in adozione? No, non la chiamerei così, è un mondo complicato, è un mondo che è difficile definire in modo schematico. Direi che c'è una certa chiarezza nella procedura finché si tratta appunto di arrivare al decreto di idoneità, perché lì i tempi sono chiari e anche i rifiuti e anche, come dire, i passi indietro sono immediatamente scanditi. Comunque un organismo governativo, è tutto, diciamo, alla luce del sole. Assolutamente, questa è una cosa che passa per il Tribunale dei Minori italiano, insomma, se i genitori sono... E come mai hanno tanti bambini da dare in adozione? Qual è il motivo? Allora, il punto del motivo per cui vengono dati così tanti bambini in adozione internazionale riguarda i paesi che danno in adozione i loro bambini. Ogni paese ha la sua storia, ogni paese ha la sua cultura dell'abbandono, diciamo così, per cui, non so, per esempio la Cina sconta la politica del figlio unico, il Nepal o il Vietnam o la Cambogia scontano situazioni politiche che vedono questi bambini spesso abbandonati, l'America Latina la piaga dei niños de rua, la Russia ha una condizione soprattutto nella provincia di estrema povertà e indigenza, e nel caso di un paese che ha quelle temperature, povertà e indigenza potrebbe significare la morte per questi bambini se non trovassero istituti o luoghi di accoglienza. 800 24 00 24, avete esperienze di adozione internazionale o ci state provando, o considerate questo tipo di modalità per avere un figlio una modalità secondo voi non in linea con quelli che sono i vostri principi? C'è chi pensa, per esempio, che siano meno figli degli altri. C'è chi crede che debbano essere compatiti o perdonati qualunque cosa facciano. C'è chi, semplicemente, aspetta l'occasione per scuotere la testa e dirsi, talvolta anche dire: del resto, non si sa chi li abbia messi al mondo. Da tutte queste cose si vorrebbe che i bambini fossero schermati, difesi, protetti. Ma il punto è un altro: impedire che questo modo di vedere la realtà diventi dominante. È una scelta senz'altro importante. Sto parlando con Amaltea, naturalmente uno pseudonimo, è una madre che ha adottato 3 bambini che vengono dalla Russia. Oggi sono grandi, ma quando li ha presi avevano 5, 3 e 2 anni, quindi soprattutto uno era piccolissimo. Tu dici nel primo capitolo del tuo libro che non è un piano B. Diciamo, non è che uno prova in tutte le maniere a fare un figlio secondo i metodi che implicano la propria parte fisica e fisiologica e poi invece adotta. Non è esattamente così. No, non è esattamente così nel caso dell'adozione, direi proprio di no. Però sarebbe anche, come dire, ipocrita dire che chi si arriva all'adozione senza aver sperimentato la via della fecondazione assistito artificiale. Ci si arriva spesso così. Ecco, diciamo che quando si arriva all'adozione situazione ci si accorge, quindi in qualche modo è una cosa che si capisce alla fine, ci si accorge che era veramente così che dovevano andare le cose. E quindi ecco, l'ho scritto in un passaggio a cui tengo, perché l'insuccesso procreativo si trasforma in realtà in un non successo, cioè in una cosa che non è accaduta. E io credo che ognuno di noi abbia come dire una serie di episodi personali, privati nella propria vita, di cose che gli sono accadute perché non gliene sono accadute altre. Sì, io ricordo una madre che ci rinfacciava sempre: quanto ho sofferto per metterti alla luce, quanto mi hai fatto soffrire le notti alzate. Tu almeno queste cose non potrai mai rinfacciarle ai tuoi figli. Assolutamente. Mi avete squarciato con dolore. Nina, buongiorno. Sì, buongiorno. Intervengo perché in realtà vorrei un po' smontare tutta questa impalcatura, cioè il discorso un po' edulcorato, no? Sull'arrivare. Perché edulcorato? Ognuno ha la sua esperienza. Perché, no, perché l'esperienza purtroppo di molte coppie non è così semplice. Dica la sua allora. La mia è questa: noi abbiamo fatto domanda più di 2 anni fa. Il percorso è stato sì semplice, con gli assistenti sociali, con gli psicologi, la questura, diciamo le cose come sono. Il percorso è molto lungo e molto complesso. Ci si arriva veramente con amore, perché bisogna avere una forte convinzione per fare questo passo. Si arriva poi ad un giorno in cui si riceve una lettera dopo 2 anni in cui un giudice di un tribunale, in questo caso nelle Marche, diciamo, ci siamo capiti, decide che per quei 20 minuti di incontro che ha avuto con la coppia, ha deciso che la coppia non è idonea. Quando? Però scusi, quando può esserci, scusi, no. 7 mesi. Sì, però scusi Nina, la sua situazione è diversa semplicemente che non l'hanno giudicata idonea. Sto parlando con una persona che se l'è portati i figli a casa, quindi era idonea. È un percorso diverso. Ma resti un attimo, ascolta Maltea. No, ha ragione che i tempi possono essere diversi e possono essere più lunghi. È vero anche che, come dire, il rapporto che si instaura con gli assistenti sociali è spesso tale per cui non si arriva in genere con una grande sorpresa, cioè si capisce un pochino come va nel corso. Questo sta, è evidente, questo è come il problema della scuola: è una buona scuola, è una cattiva scuola, il punto poi è sempre la maestra. Allora è vero, si può avere, io sono stata fortunata nel tipo di assistenti sociali che ho incontrato, e per esempio nella regione dove ho fatto la pratica è una fortuna che ho condiviso con moltissime famiglie, non sono stata l'unica. E so che i tempi di rilascio di un decreto vanno fino a un anno e qualche mese. Per te quanto tempo è stato? Regione. Per me è stato un anno e qualche mese, un anno e due, non tre mesi. Non mi sembra edulcorata però la situazione. Perché... Allora, in alcuni anni, in alcuni casi può arrivare a più tempo, ma quando arriva a più tempo vuol dire c'è stato un problema, c'è stato magari un mancato incontro, un mancato, diciamo, una mancata comprensione con gli assistenti sociali, delle volte. Ma l'elemento di soggettività è da parte del giudice o degli assistenti? Gli assistenti portano la loro relazione al giudice, poi il giudice giudica. Certo. Si è comunque in mano a delle persone, ti fanno come delle i periti domande di un processo penale, la stessa cosa. Poi ti fanno il giudice delle domande, puoi rispondere bene, puoi anche rispondere male. Tante volte, ora non entro nel suo caso, no? Ma ricordo durante uno degli incontri preparatori un assistente sociale che raccontava che la maggior parte dei genitori si presentava lì dicendo: vabbè, io lo vorrei il più possibile piccolo e bello. Ecco, queste non sono frasi che per esempio testimoniano una disposizione a quello che ti può avvenire con un figlio adottivo. Ci fermiamo soltanto un istante, devo dare le informazioni del traffico, poi abbiamo tante telefonate, vedo che il problema è sicuramente sentito e le esperienze sono variegate, è chiaro, è un mondo complesso, l'abbiamo detto subito, e ogni esperienza vale per la persona che l'ha vissuta e ce la può raccontare. Tra un istante. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Se ne sentono di tutti i colori, o almeno tante ne ho sentite io prima di cominciare. Chi mi diceva che ci avrebbero interrogato con la luce puntata sugli occhi come a Sing Sing? Chi raccontava di coppie scivolate al primo incontro sull'abbigliamento troppo casual o su tagli di capelli eccessivamente scolpiti? Chi evocava scenari di tregenda se solo fosse venuto fuori che per un periodo avevamo avuto per una svista la residenza in 2 città diverse. Insomma, un autentico terrorismo. Altro che assistenti sociali. Alcune storie erano così mirabolanti e fuori dall'ordinario che provo una punta di amarezza per non essere in grado di restituirne la narrazione. 800240024, stiamo raccontando di un'esperienza di una madre che ha adottato 3 bambini russi e ha raccontato questa sua storia in un libro che è stato pubblicato per Einaudi e il titolo è Il mare non chiude mai, adottare 3 bambini e restare allegri. Lo pseudonimo dell'autrice è Amaltea, che ricordo che è la capretta che allevò Zeus. Perché il mare non chiude mai? Per questi bambini non ho mai visto il mare. Sì, è una storia veramente che mi aveva molto colpito, questa frase che mi aveva detto una delle mie figlie, e quando al ritorno dalla prima volta che hanno visto il mare, per dei bambini insomma che sono cresciuti in un posto dove il mare non era davvero previsto, la Russia, e che è una giornata molto emozionante, anche molto così direi stralunata, e alla fine la sera la mia seconda mi ha chiesto: mamma, ma il mare la sera lo chiudono? Perché diciamo le sembrava comunque, non so, come un parco, come una cosa che dovesse avere dei cancelli. E si spegneva a un certo punto, è una cosa veramente fantastica, e fantastico è tale proprio perché ha un inizio e una fine. E se posso aggiungere, questo è un dettaglio biografico che ho saputo molto dopo, mia mamma leggendo questo libro, era un ricordo che non mi aveva restituito quando ero bambina, mi raccontava di mio nonno che è cresciuto in un paesetto delle Marche e che non aveva visto mai il mare fino a 13-14 anni, all'epoca anche le Marche insomma non erano facilmente collegate, e chiese a suo padre, dopo aver visto il mare per la prima volta, se il mare la sera lo chiudevano. Evidentemente è un topos, come dire, psicologico che chi non ha mai visto il mare condivide. È perché il mare ha un orizzonte sconfinato. Chi vive, io vengo dall'Umbria, anche io il mare l'ho visto molto tardi. Non hai idea, c'è sempre una collina, una montagna, qualcosa che definisce il tuo orizzonte. Non abbiamo il senso dell'orizzonte indefinibile. Sentiamo qualche altro ascoltatore, poi entriamo un po' negli aspetti problematici, perché ce ne sono senz'altro. Questo è un libro che racconta un iter non certo facile. Un'ascoltatrice ha detto prima, è edulcorato. Non c'è nulla di edulcorato. Che sono esperienze diverse. È chiaro che c'è una selezione molto forte all'inizio, perché il bello viene dopo, una volta che i figli se li ha portati a casa. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io intanto condividevo in pieno quello che la signora di presente da voi, la dottoressa, scusi non ricordo il nome. Amaltea, la chiamo così per rispetto, io so come si chiama, ma non vuole che si dica, non lo dico. Assolutamente sì, no, condividevo assolutamente la mia esperienza, per farla molto breve, che nel 2006 siamo andati con mia moglie ad adottare 2 bambini in Brasile, ed è stata un'esperienza di tutto sommato, devo dire, abbastanza veloce, nel senso che in 3 anni dalla domanda che si fa ai colloqui, come diceva prima la dottoressa, abbiamo fatto tutti i colloqui e poi dopodiché siamo partiti nel 2006 e nel 2007 siamo tornati, perché l'iter prevede circa un mese di permanenza nel posto dove i ragazzi sono residenti, dove vivono insomma. E devo dire che quello che ha detto bene è che durante i colloqui che facevamo prima dell'adozione presso il nostro centro dove ci appoggiavamo per questo ad Albenga, molte coppie diciamo hanno avuto molte difficoltà perché, come dicevano appunto, richiedevano bambini molto piccoli, bambini possibilmente di pelle molto chiara, ahimè ancora questi pregiudizi, e che assolutamente non avessero nessun tipo di problema, cosa che è impossibile, voglio dire, se tu adotti un bambino, il bambino è quello che è, voglio dire. Ma anche quando ti nasce un figlio, poi lo posso dire sulla mia pelle, i problemi poi vengono fuori comunque. Molto chiaro, grazie. Roberto. Sì, buongiorno. Niente, la nostra esperienza è stata lunga, diciamo. Ci sono voluti 5 anni e 10 mesi per poter avere la gioia di conoscere nostra figlia, ecco. Diciamo che abbiamo fatto domanda, abbiamo fatto tutto l'iter, servizi sociali e quant'altro, per poi arrivare a conferire mandato ad un ente per l'adozione internazionale. Dopo circa 2 anni e mezzo abbiamo chiamato, adesso non sto a entrare nel merito perché c'è, insomma, siamo in ballo con avvocati e comunque ho ottenuto diciamo l'adozione nazionale dopo 5 anni e 10 mesi. I tempi ci sono. A Malteso, questo caso? Ecco, questo è un caso interessante perché quello che prima dicevo, allora, una cosa sono i tempi del rilascio del decreto di idoneità, che mi sembra anche in questo caso siano stati ragionevoli. Il punto, il problema vero comincia dopo, perché la foresta, direi, degli enti che si occupano di fare la mediazione tra i diversi paesi è veramente un mondo insidiosissimo. Ecco, trovo già scandaloso. È un'attesa di 2 anni e mezzo per avere una risposta, perché bisognerebbe essere contattati di continuo, capire a che punto è la propria pratica. Ma questo perché accade? Questo accade perché ci sono, è un mondo complicato, oggettivamente complicato. Non dimentichiamo che spesso si dipende dalle politiche dei paesi, per cui certo. Non so, la Bielorussia a un certo momento ha interrotto le adozioni per i casi peraltro legati anche a vicende italiane. E il Nepal ha cambiato il ministro degli interni e ha deciso che basta, mossa patriottica, allora bloccate le adozioni. Il Congo, lo vediamo che cosa sta succedendo. Allora, in parte sono delle difficoltà oggettive, in parte questi enti spesso sono improvvisati. Ci sono delle aree grigie. Ci sono dei grandi professionisti, ma anche dei professionisti mediocri, e questo purtroppo sulla pelle dei bambini poi alla fine. In questo caso il tempo non è che gioca molto a favore anche della qualità poi del rapporto. Certo, io voglio dire, uno decide che a 35 anni vuole adottare un figlio, che gli arrivi a 42 non è esattamente la stessa cosa. Non è esattamente la stessa cosa, ma io voglio dire un episodio che mi è capitato e che trovo, direi, simbolico di questa vicenda. Quando noi siamo andati nell'istituto dove c'erano i nostri figli, era un istituto russo, diciamo per le proporzioni russe abbastanza piccolo, con una quarantina di bambini, con tutti i bambini abbastanza piccoli, e sappiamo che quando il bambino è piccolo alcune delle cose sono comunque più semplici, non tutte, ma insomma alcune, e io chiesi alla direttrice quanti di questi bambini vanno in adozione, ma la feci un po' come domanda retorica, cioè mi aspettavo come risposta tutti, e lei mi rispose il 10%. E perché? E io ho detto perché? Perché il 10%? Perché? Perché non si riesce, perché poi dopo le famiglie arrivano, perché c'è uno scollamento, perché ci sono delle zone appunto di... Ma è vero che sono classificati i bambini da chi, diciamo, li dà in adozione? Esiste una classifica bambini A, B, C, D, secondo? Nel caso russo, senz'altro. Ma in base a cosa? La stessa anche in Cina. Nel caso russo c'è una selezione sulla salute che fanno loro e che ti dicono, diciamo, a che livello di salute corrisponde. Nessun bambino che esce dall'istituto ha mai un livello di salute perfetto. Cornelia. Buongiorno. Abbiamo 3 bambini che ormai sono giovani adulti, sono stati adottati oltre 30 anni fa. La maggiore è già medico, si sta specializzando in anestesia e rianimazione. Il secondo è ancora all'università, mentre il terzo si è laureato in leggi e si sta preparando per l'esame come procuratore. Io e mio ex marito abbiamo vissuto per tanti anni in Africa e siamo stati tra i primi ad essere agevolati dalla nuova legge sulle adozioni emanata nell'83 in Italia. Sapevo già di non poter avere figli per motivi miei prima del matrimonio, e con mio marito avevamo deciso che ne avremmo adottati, e così fu. Ne adottammo 4, a dir la verità. La gemella del piccolino, purtroppo per motivi gravissimi di salute e denutrizione, è deceduta dopo poco, ma è sempre nel mio cuore. Ora noi viviamo qui e i ragazzi si sono ben inseriti. Quando qualcuno chiede loro di che nazionalità sei, e loro rispondono in sardo, sono sarda. E questa chiaramente una vicenda legata anche ad altri tempi, 30 anni fa. Era più difficile forse 30 anni fa, veramente complimenti. E c'era anche una motivazione e diciamo una conoscenza del territorio maggiore. Ricordo il titolo del libro, Il mare non chiude mai, adottare 3 bambini e restare allegri, autrice Amaltea Einaudi, che oggi ci ha raccontato la sua storia.